Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti a Cuore Denari, buon lunedì, buongiorno a te Deborah, io sono Eccoci. Tornata, come mi trovi? Ma come dire, con quell'aria un po' stropicciata. Sì, però è anche quell'aria positiva che dà solitamente Roma, che riesce a dare nonostante tutte le polemiche che riguardano questa città costantemente. Hai trovato tanta spazzatura in giro? No, devo dire, sono stata un po' blindata, quindi non ho potuto, però insomma è sempre una bella città. E a proposito di città, Deborah, un gruppo di esperti dell'Università di Melbourne e San Diego hanno pubblicato una serie di articoli su Lancet per descrivere le caratteristiche che deve avere una città ideale. Indovina un po'? Allora c'è Trento, che di solito viene decretata la città dove c'è la più alta qualità della vita secondo il Sole 24 Ore. Probabilmente sì, ma non, nell'articolo non era riportato, ma la città ideale, e forse Trento lo è, deve essere amica della salute. Per raggiungere questo obiettivo gli esperti auspicano naturalmente un futuro con città ovviamente sempre più a misura d'uomo, dove tutto può essere raggiungibile a piedi, in bici o con i mezzi. E per essere ancora, come si dice, più persuasivi, sono passati, come spesso facciamo noi a Cuore Denari, dalla teoria alla pratica, applicando il loro modello proprio a delle grandi metropoli come Melbourne, Boston e Londra, quantificando poi dettagliatamente i benefici di questo tipo di scelte. Ebbene, cara Deborah, i risultati sono chiari. Investendo su questi cambiamenti, di cui parliamo spesso qui in trasmissione, cose molto semplici, andare, per chi può farlo, al lavoro a piedi, fare un po' le scale, mangiare un po' meglio. Fatto un sacco di bici questo weekend. Sei contenta? Per questo, vedi che ti vedo proprio con tutta bella, splendente. Però c'ho anche un splendente. Po' di mal di gola, come senti. Ma sai che stanno arrivando un po', le cugine dell'influenza stanno arrivando, ma noi vi daremo consigli. Insomma, sembra che piccoli cambiamenti salvino il cuore, benissimo, prevengano il diabete, un investimento che varrebbe comunque la pena di fare. Chissà Bologna come stanno le cose, anticipiamo già ai nostri ascoltatori che mercoledì siamo di nuovo in trasferta per Cersai e quindi riparleremo un po' dell'arredo bagno, di come far belle le nostre case. Io parlerò dei bonus per le ristrutturazioni, tu invece hai già pianificato. Allora, io devo trovare un medico che possa spendere tra il bagno e la cucina, che si interessi di queste due parti della nostra casa, che vada bene, benissimo, a cui pensiamo quando siamo in cucina ma anche quando siamo in bagno. Lo troverò? Allora, sì, guarda, Bologna diciamo che è un centro ricca, abbastanza, suggeritemi, esatto, interessante da questo punto di vista. Intanto direi di dare subito inizio, dare il via alla nostra trasmissione, non perdiamo le nostre buone abitudini, partiamo con la nostra rassegna stampa. Allora, partiamo subito con la borsa e già la partenza della settimana la vedo piuttosto inquieta per i listini continentali. Abbiamo un ribasso di un punto e mezzo abbondante a Parigi, Francoforte perde l'1,42%, Milano perde come al solito di più, -1,85% sul FTSE MIB, Londra -1,23%. Il quadro in Asia stamattina è stato negativo, Nikkei a Tokyo -1,25% e quindi dopo una settimana brillante, quella che abbiamo vissuto settimana scorsa, quando i listini sono stati trainati da le varie iniziative delle banche centrali che hanno stimolato gli investitori verso quei settori che traggono vantaggio da una politica monetaria, da una politica di tassi molto bassi, oggi si riprende invece il segno meno. C'è molto fermento a Piazza Affari ancora una volta sul settore bancario. In realtà il focus di questi giorni sarà tutto sul settore petrolifero. Perché? Perché il 28 si riunisce ad Algeri l'OPEC e chissà quali decisioni verranno prese per tornare a dare una sorta di stabilità, per trovare un punto di equilibrio, almeno secondo le interpretazioni di analisti ed economisti, per quello che riguarda il prezzo del greggio. Sui temi della settimana però io non voglio dir nulla, mi faccio aiutare questa mattina da un esperto. Buongiorno e grazie per essere con noi ad Alfonso Maglio, portfolio manager di Marzotto Sim. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, dicevamo, attese per il vertice OPEC, Maglio, ma anche stamattina il mercato si è svegliato con un'altra notizia non proprio buona, anche se ormai alle fibrillazioni di quell'area siamo oltremodo abituati. C'è un downgrade, cioè una riduzione di giudizio sul debito sovrano appunto nei confronti della Turchia. Allora, tra la Turchia e le attese del vertice OPEC, quanto contano questi due elementi sui ribassi di borsa di stamattina? Beh, i due elementi contano abbastanza, perché come si diceva la settimana non è iniziata nel migliore dei modi, anzi è iniziata nel peggiore dei modi. Tutti gli indici sono negativi anche a livello settoriale, non c'è un settore con una variazione percentuale positiva. La riduzione del merito di credito relativa al debito sovrano della Turchia è un fatto abbastanza importante, perché implica un riaggiustamento di tutta la curva dei rendimenti di questo paese, poi anche come effetto segnaletico nei confronti del mercato, è comunque una notizia non positiva. L'attesa per il 28 relativa al meeting dell'OPEC, anche questo è un fatto molto importante, perché per la prima volta sembrerebbe che i paesi produttori siano maggiormente inclini a un accordo che potrebbe portare a una riduzione della produzione giornaliera con tutti gli effetti che possiamo immaginare, quindi riduzione delle scorte e un aumento del prezzo del petrolio, certo. Che potrebbe attestarsi intorno ai $50. È il prezzo di equilibrio che vuole il mercato in questo periodo, Maglio, e perché? Sì, probabilmente è il prezzo che può mettere d'accordo un po' tutti. Da un lato aumentare la redditività e quindi la marginalità delle aziende del settore petrolifero, che insieme al settore delle materie di base l'anno scorso e anche quest'anno hanno subito una grossa fase di contrazione. Dall'altro è un livello di prezzo che, sebbene più alto di quello attuale, probabilmente può consentire una sostenibilità del petrolio come fattore produttivo, quindi non pesare troppo sui conti economici delle aziende e sulla trasmissione a valle probabilmente dell'aumento dei prezzi. Intanto, per dare ai nostri ascoltatori le quotazioni in questo momento, il Brent di Londra, il greggio di riferimento europeo, quello del Mare del Nord, è a $45.91 al barile, il WTI, il greggio di riferimento americano, quota intorno ai $44.50. Saipem è il peggior titolo di Piazza Affari, quindi nel settore rimaniamo, e sta perdendo 5 punti percentuali, Eni meno 1,75. Andiamo invece ai temi della settimana, Maglio, cominciando con i dati più importanti che vi aspettate dal punto di vista macroeconomico. Su che cosa dobbiamo fare un focus e puntare un riflettore? Sì, i dati, allora la settimana economica entrante, per così dire, è abbastanza ricca. Spiccano sicuramente i dati relativi al prodotto interno lordo sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. In particolar modo questi due dati saranno sotto osservazione da parte di tutti gli operatori del mercato. Perché? Perché da un lato abbiamo una banca centrale, la Fed, che è in bilico tra l'aumentare o meno i tassi, quindi un'ulteriore lettura del prodotto interno lordo potrà accelerare oppure rallentare su questo fronte. Dall'altro, neanche a dirlo, tutti i dati relativi all'Inghilterra sono oggetto di scrutinio molto attento, visto anche gli effetti che ha prodotto il referendum, quindi per cercare di capire se effettivamente l'Inghilterra è in una fase di rallentamento oppure no, e come potrà comportarsi la banca centrale e di conseguenza anche gli investitori. Dopo che ricordiamo, dopo che ha già tagliato i tassi di interesse in agosto, con una mossa appunto che era stata peraltro un po' auspicata, era stata attesa per luglio, poi non era stata fatta, ad agosto poi è stato fatto questo taglio dei tassi che addirittura per la, insomma, anche se la portata era minima, è stato definito storico, no Maglio? Certo, sì, anche perché fino a un anno fa, prima ovviamente dell'esito del referendum, era consenso che la banca centrale inglese potesse essere la prima a seguire la Fed in questa cambio di politica, tassi, no? Certo. Quindi c'è stata proprio un'inversione. Va bene, questo per quello che riguarda dunque i dati macroeconomici. Peraltro è arrivato l'IFO tedesco stamattina, l'indice di fiducia appunto delle imprese, che è migliore delle attese per quello che riguarda l'ultima rilevazione appunto mensile, ma la borsa di Francoforte non ne beneficia tanto. E poi arriveranno sempre dagli Stati Uniti molte statistiche che riguardano l'andamento del settore immobiliare, le vendite di case nuove e i prezzi delle case, oltre che la fiducia dei consumatori, gli ordini di beni durevoli. Domani il Tesoro italiano mette in asta 2 miliardi e mezzo di GTZ a due anni e 1 miliardo di BTP indicizzati all'inflazione. Per i temi di Piazza Affari invece, Maglio, il grande osservato speciale è sempre il settore bancario, anche questa settimana? Sì, purtroppo sì, direi che il sorvegliato speciale è il settore bancario. Durante questa settimana dovrebbe tenersi il CDA del Banca Montepaschi, durante il quale c'è la possibilità che si possa dire qualcosa in merito ai piani straordinari, no? Che sono ormai a conoscenza di tutti, volti a cercare di risollevare un po' le sorti dell'istituto bancario. E un po' più in là nel tempo ci sarà anche il CDA del Popolare Milano, anch'essa coinvolta in una operazione di finanza straordinaria volta un po' a risolvere la situazione patrimoniale. Questo grande matrimonio, insomma, che attendiamo, ormai dovrebbe essere operativo con il Banco Popolare il 1 gennaio. Ultima domanda, flash la risposta, le chiedo Maglio, abbiamo avuto appunto settimana scorsa le riunioni di Banca Centrale Americana e quella importante della Banca Centrale del Giappone, che ha reso noto che d'ora in avanti la sua strategia sarà orientata non più all'obiettivo di inflazione ma al controllo della curva dei rendimenti delle obbligazioni. Secondo lei il mercato ha già digerito tutti gli effetti di queste iniziative o questa settimana ci dobbiamo aspettare dell'altro? No, io credo che le banche centrali continueranno a condizionare il mercato nel medio e lungo periodo con le loro politiche monetarie che sono state finora particolarmente determinanti. In particolare la banca centrale giapponese ha stupito tutti con questa mossa un po' a sorpresa, no? Perché tipicamente le banche centrali si sono sempre limitate a controllare i tassi a breve. È la prima volta che una banca centrale dichiara ufficialmente di voler controllare i tassi a lungo termine, e questo, se da un lato può favorire alcuni settori come quello della previdenza o il settore anche bancario o assicurativo, i cui utili dipendono molto dal rendimento del titolo decennale, dal mercato monetario, gli effetti che noi possiamo avere in seguito a questo nuovo approccio sono abbastanza incerti. Si spera siano positivi, però io credo che saranno ancora, avremo ancora tante cose da vedere. Grazie ad Alfonso Maglio, portfolio manager di Marzotto Sim. Buona giornata. Segnalo solo che a Piazza Affari in questo momento c'è un solo titolo positivo, Recordati guadagna poco più di 2 punti, per il resto il quadro in rosso. Ovunque abbiamo cali diffusi su tutto il settore bancario. Segnalo come ultima cosa che domani il tema della collana del Sole 24 Ore, dei tuoi diritti, sarà quello della casa nei suoi vari aspetti, dall'impostazione al contratto di locazione alle regole per la compravendita. Si parlerà anche della condanna per stalking a carico di quel condomino di cui, ti ricordi, abbiamo parlato in una puntata settimana scorsa, quindi lo segnalo ai nostri ascoltatori. Io adesso, Nicoletta, se vuoi ti ridò la linea, la prendi? Volentieri. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme. Vi aspettiamo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Cuore e Denari. E apriamo la rassegna stampa di Cuore con un successo della ricerca italiana firmata dai ricercatori dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, che hanno trovato un marcatore utile a identificare nella fase iniziale l'epilessia. Quindi prima ancora che si sviluppino le convulsioni, che sono le manifestazioni cliniche di questa malattia. Ne parliamo col dottor Massimo Rizzi dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Dipartimento di Neuroscienze. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora dottor Rizzi, ci spiega come avete individuato questo marcatore? Ma abbiamo effettuato delle analisi matematiche particolari nelle fasi iniziali in cui si sviluppa la malattia, proprio analizzando l'elettroencefalogramma, e abbiamo trovato che c'è un comportamento particolare dell'attività elettrica del cervello che si verifica solo nel momento in cui l'epilessia sta, come dire, nascendo, sta mettendo il cantiere in piedi per poi svilupparsi apertamente più avanti. Secondo i dati dell'OMS, dottore, quasi 1 milione di persone nel mondo ogni anno sviluppano epilessia in seguito a traumi cerebrali o infezioni. Per queste persone ancora oggi purtroppo non è possibile intervenire in alcun modo, dal momento che da un lato non esistono terapie in grado di prevenire l'insorgenza, dall'altro non ci sono degli esami proprio specifici, mirati, che indicano un imminente sviluppo della malattia. Ma sicuramente la vostra ricerca potrebbe cambiare la situazione, è corretto? Sì, è corretto, perché la ricerca, diciamo, che apre uno spiraglio da questo punto di vista, cioè puntare effettivamente a bloccare sul nascere l'epilessia invece di aspettare che questa arrivi, e utilizzare ciò che è disponibile, che sono dei farmaci attualmente puramente sintomatici, cioè che effettivamente puntano a contenere delle convulsioni. Qui invece si punta a bloccarla proprio sul nascere, e quindi intervenendo molto precocemente. Assolutamente sì. Dottor Rizzi, grazie, buona giornata, complimenti. Grazie. Grazie a voi. E poi si dice sempre anche un po' in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Davvero. A presto. A voi. A presto di nuovo. E chiudiamo la nostra rassegna stampa con una ricerca che arriva direttamente dal Regno Unito, Deborah, dove un gruppo di esperti dell'Università di Cambridge ha studiato come, durante la giornata e soprattutto in alcuni momenti della nostra giornata, saremo più suscettibili alle infezioni. Insomma, i virus sfrutterebbero a loro vantaggio il nostro orologio biologico per replicarsi e diffondersi nell'organismo. Ne parliamo oggi con il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica Humanitas e docente dell'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Allora, tutti noi sappiamo che durante la giornata abbiamo dei momenti sì e dei momenti no, momenti in cui la stanchezza si fa più sentire, momenti in cui ci va più facilmente la mosca al naso. Bene, anche il nostro sistema immunitario ha dei momenti alti e bassi. Ad esempio, voi avete scoperto che al mattino, un po' come noi, fa più fatica a carburare, soprattutto se non abbiamo dormito bene. Professor Selmi. Credo che questo sia uno studio estremamente interessante che spiega quanto forse sapevamo da tempo, in particolare la qualità del sonno, quindi come noi ci svegliamo riposati ha un effetto antinfiammatorio molto potente sul nostro sistema immunitario, questo è il primo elemento. Il secondo è un rapporto che forse abbiamo sempre sospettato e mai confermato davvero tra gli ormoni, in particolare il cortisolo, gli ormoni che ci fanno risvegliare al mattino e appunto la funzione del sistema immunitario. Per cui credo che questo indichi come un riposo adeguato per durata e qualità, quantificabile tra le 8, ma generalmente non più delle 10 ore, possa avere un effetto positivo anche sulla nostra funzione immunitaria. Nutre anche la salute, il sonno, quindi ci rende, quando le nostre nonne dicevano non stai così tanto bene, mettiti a letto, fatti una bella dormita che domani sei nuovo, ci avevano beccato, professor Selmi. In parte sì, credo che generalmente ci si riferisca soprattutto al riposo notturno. Generalmente in Italia noi tendiamo a mettere spesso le persone a riposo e questo credo che vada valutato in realtà caso per caso, ovviamente se uno è particolarmente prostrato da un'infezione, non può far altro che riposare. In generale però una ripresa anche precoce dell'attività in caso di queste condizioni credo che vada fortemente consigliata. Professore, anticipavo con Deborah che si iniziano ad avere, no, i primi segnali dell'arrivo di quelle che io chiamo le cugine dell'influenza, perché non è l'influenza vera e propria, ma iniziamo ad avvicinarci alla stagione in cui faremo i conti con le cosiddette malattie da raffreddamento. Ci toccano, professor Selmi. Ci toccano certamente, possiamo innanzitutto consigliare la vaccinazione antinfluenzale, che credo sia uno dei più grandi progressi e quindi anche qualcosa di bassissimo costo che ci protegge fortemente. Seconda cosa è rendersi conto che queste infezioni, soprattutto quelle un po' spurie a cui faceva riferimento, passano come tutte le infezioni virali, quindi è inutile essere particolarmente aggressivi. Attenzione solo, soprattutto nelle popolazioni a rischio, quindi penso agli anziani, penso alle persone con altre patologie, alle eventuali complicanze, generalmente batteriche. Basta poco anche per difendersi, il rispetto di alcune regole elementari, lavarsi le mani, c'è anche una giornata dedicata, professor Selmi. Non starnutire in faccia al vicino, ecco, possibilmente, né tossirgli addosso, professor Selmi. Ripassiamo le regole che sembrano di buona educazione, ma in realtà rafforzano anche, evitano delle aggressioni al nostro sistema immunitario. Al di là delle regole di buona educazione che andrebbero sempre rispettate, in generale le infezioni respiratorie si trasmettono attraverso le goccioline che noi emettiamo anche quando parliamo, per cui senza farne, come dire, una crociata o senza isolarsi in una torre d'avorio, credo che le minime raccomandazioni, compreso il lavaggio frequente delle mani per chi in particolare fa dei mestieri a rischio come quelli nella salute, siano regole da seguire e con efficacia oramai dimostrata. Professor Selmi, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buonissima giornata. Ricordate quindi che anche il nostro sistema immunitario ha dei momenti in cui è meno efficiente del solito, quindi un buon riposo e soprattutto al mattino è il momento un pochino più fragile. Ci portiamo a casa questa informazione, professor Selmi? Direi certamente di sì, rientra in un buon stile di vita di cui beneficia anche il nostro sistema immunitario. Grazie professor Selmi, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Noi, Deborah, abbiamo l'opportunità sfruttiamola di anticipare quelli che saranno i temi della nostra prossima ora. Guarda, qua andiamo veramente sull'attualità, che per la verità è anche un pochino dolorosa voler affrontare in maniera seria questo argomento, perché parleremo della coppia che è scoppiata di recente e naturalmente una storia che ha occupato tutte le pagine di tutti i giornali, perché siamo anche un po' perversi, no? nel volerci interessare alle storie delle celebrità. Quindi parleremo del divorzio del momento, quello tra Angelina Jolie e Brad Pitt, ma ovviamente dal punto di vista che piace a cuore denari. Nessuno saprà mai quello che è successo all'interno di quella, mi verrebbe da dire di casa, ma loro ne avevano talmente tante, all'interno di quella coppia. Allora, come ci occuperemo di tutte quelle coppie che scoppiano in Italia e che magari potrebbero non scoppiare se facessero ricorso a questo istituto che si chiama mediazione familiare, poco conosciuto, e quindi noi ne parleremo con due esperti per capire se per esempio la conflittualità può essere ridotta utilizzando questo strumento. Tu invece? Noi parleremo naturalmente delle ripercussioni emotive che una separazione, una coppia che ha problemi di una buona convivenza ricadono naturalmente sui figli. Quindi se state vivendo questo momento o l'avete vissuto da figli, state con noi, restate con noi e chiamate al nostro numero verde. A tra poco. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. Sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana gireremo il mondo e percorreremo la storia sulle ali del falco e il gabbiano. Una grande attrice, una donna dal fascino unico, Charlotte Rampling. E poi il gangsta rap con quello strano sorriso sulle labbra, Snoop Dogg. È l'unica che muore nel film Via col vento, ma in realtà sopravvive a tutti e vive 100 anni, Olivia de Havilland. Assieme a Vittorio Sgarbi parliamo di uno dei casi più discussi dell'arte contemporanea, Maurizio Cattelan. Travolto dal suo genio, l'uomo che ha inventato Dylan Dog, la storia di Tiziano Sclavi. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e il Gabbiano. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri. Ebbene sì, ci sono coppie che vanno d'amore e d'accordo e coppie che invece vivono sul confronto continuo, un po' mi verrebbe da dire come Hillary Clinton e Donald Trump, che proprio stasera avranno il primo faccia a faccia televisivo, pensa Nicoletta, 100 milioni di americani pronti a seguirli e qualche italiano anche che si collegherà stanotte, chissà se ce la facciamo anche io e te. Ci sono poi anche coppie da favola che a un certo punto scoppiano, basta una parola e ci capiamo, la vuoi dire tu? No, Brangelina. Un brand proprio che ha identificato a lungo il successo di questa coppia famosissima, Brad Pitt e Angelina Jolie. Allora, differenze inconciliabili sull'educazione dei figli e poi ne sono venute fuori di ogni, abuso di alcol, violenza, giorno dopo giorno si arricchisce a tutto vantaggio del gossip, il dossier sulla separazione del momento, quella appunto fra Brad Pitt e Angelina Jolie. Come siano andate davvero le cose, lo dicevamo anche prima del giornale radio, noi non lo sapremo mai. Non vogliamo neanche saperlo. Brava, perché io e Nicoletta siamo dalla parte del rispetto di tutti coloro che sono coinvolti in questa triste vicenda e quindi qui siamo necessariamente dalla parte dei 6 figli di questa coppia che hanno diritto ad ogni tutela e a ogni protezione. Questo è un caso che per le personalità e celebrità coinvolte guadagna da giorni le prime pagine di tutti i giornali del mondo, poi però ci sono anche quelle situazioni sui quali invece i riflettori non sono assolutamente puntati. Ci sono i fatti drammatici di cui pure continuiamo a leggere, i femminicidi, la crescita costante di casi di donne uccise da compagni che non si rassegnano alle separazioni. E poi ci sono le quotidianità molto silenziose, i conflitti familiari, tante storie degne di nessun clamore che però si consumano assai probabilmente nelle case di tutti, tante situazioni che a detta dei protagonisti sono solo destinate a risolversi nella chiusura del rapporto, ma che forse con adeguato aiuto e un percorso accompagnato da professionisti potrebbero invece intraprendere strade diverse. Ecco perché noi oggi abbiamo fatto tutto questo preambolo per arrivare a dire che vogliamo parlare dell'istituto della mediazione familiare, che forse in Italia non ha il riscontro che merita, probabilmente perché non è adeguatamente conosciuto. Chi vuole separarsi generalmente va dall'avvocato o al limite prima si tenta magari la strada da uno psicologo, ma la mediazione forse non è proprio un tentativo perseguito da molti, dalle coppie in difficoltà. Allora noi oggi abbiamo invitato a cuore denari Teodora Tiziana Rizzo, che è direttrice di INAMEF, l'Istituto Nazionale di Mediazione Familiare e Penale. Buongiorno dottoressa Rizzo, benvenuta. Buongiorno. No, grazie. Grazie a lei e buongiorno e grazie anche ad Antonio Anzillotti Bellisario, mediatore familiare e avvocato. Sai che cosa mi ha detto? Preferisco che prima si dica che faccio il mediatore e poi l'avvocato. Dottore, allora Paolo, a questo punto, dottor Bellisario, buongiorno. Buongiorno. Allora, per queste due persone, Nicoletta, sono nella vita, coppia nella vita e nel lavoro. Sottolineo questo aspetto non perché vogliamo far conoscere i fatti della dottoressa Rizzo, appunto del dottor Bellisario, a tutti i nostri ascoltatori, ma perché è stata proprio una scelta professionale precisa quella di essere insieme a sostegno delle coppie che vanno a chiedere aiuto. Poi cercheremo di capire anche le motivazioni di questo metodo. Allora, intanto potremmo anche invitare gli ascoltatori ad intervenire in diretta all'800240024. Magari sono già andati da un mediatore familiare. Certo, chissà o se magari hanno, ne hanno sentito parlare, ma non hanno esattamente capito se è la figura che stanno cercando. Certo. Potrebbe essere una buona occasione. Assolutamente sì. Vogliamo anche anticipare un po' poi in che modalità declinerai tu, Nicoletta, l'argomento nella seconda parte della trasmissione. Abbiamo invitato Alberto Pellai perché volevamo proprio raccontare, parlare, confrontarci sui problemi che possono nascere in famiglia quando la coppia scoppia e sono presenti dei figli. Se siete stati figli e avete avuto i vostri genitori si sono separati, o se state vivendo la separazione, chiamateci, chiederemo ad Alberto Pellai di darci un po' delle indicazioni per tutelare la serenità dei nostri bambini. Allora, dottoressa Rizzo, ribadisco per i nostri ascoltatori, direttrice dell'Istituto Nazionale di Mediazione Familiare e Penale. Probabilmente voi incontrate molte coppie ogni giorno con problemi ben diversi da quelli della ex coppia più bella e più ricca del mondo, però alla fine credo di poter dire con certezza che ci si scontra un po' sempre sulle stesse cose, no? E probabilmente, lei me lo può testimoniare, l'educazione dei figli ha sempre un ruolo fondamentale nella discussione che arriva poi alla separazione, e anche nel caso appunto di questa coppia che è scoppiata è stato il primo punto messo in evidenza dalla Jolie che ha chiesto il divorzio. Cioè la conferma, quali sono le esperienze della vostra quotidianità, dottoressa Rizzo? Sì, assolutamente confermo e sono assolutamente d'accordo con voi. Intanto sappiamo bene che la separazione rappresenta nella vita di ognuno di noi un avvenimento molto doloroso. Quindi il dolore purtroppo si manifesta ed emerge in tutte le classi sociali. Sappiamo bene che chi attraversa la delicata fase della separazione non riesce ad elaborare il conflitto, in quanto i sentimenti negativi prevalgono. I sentimenti negativi sono quelli della rabbia, del dolore, della frustrazione, che fanno comunque perdere quella lucidità e quella serenità alla coppia. E poi c'è da dire una cosa importantissima, che in questa fase i figli si sentono veramente tagliati a metà e vengono purtroppo incautamente usati come strumento di contesa, e quindi si sentono strumentalizzati e usati come merce di scambio. Questo è veramente negativo ed arreca gravi danni nel breve e nel lungo periodo. Sì, assolutamente sì. Dottoressa Rizzo, quali sono le, se così vogliamo chiamarle, definirle, nuove conflittualità della coppia con le quali vi confrontate? Ci sono problemi diversi rispetto al passato? C'è sempre la questione economica che è la prima di tutte che viene posta appunto sul vostro tavolo? Che cos'altro? Sì, oltre alla questione economica c'è anche l'educazione dei figli. Poi altri problemi sono anche insomma l'invasione di parenti, di amici che comunque entrano nella vita di una coppia, e poi c'è una grave nuova emergenza che è quella appunto dell'uso improprio dei mezzi di comunicazione, dei social network tipo Facebook e WhatsApp. Che cosa accade? Che cosa sta accadendo? Accade che i coniugi scaricano tutta la loro rabbia nei confronti dell'ex e pubblicano foto con i nuovi compagni, scrivono frasi allusive. E in questo modo che cosa accade? Accade che si alimenta ancora di più il conflitto. Questi coniugi, ex coniugi, sono accecati dal proprio egoismo e quindi non riescono a comprendere che arrecano un danno veramente grave, irreversibile ai propri figli, che perdono comunque quello che è il rispetto a volte anche per il ruolo genitoriale. Poi c'è da dire anche un'altra cosa ancora più grave: addirittura ci sono alcuni genitori che hanno tra gli amici i figli. Esatto. Quindi proviamo un po', cioè nessuno riesce a mettersi nei panni di questi figli che devono comunque subire questa insensibilità di alcuni genitori. Quindi è possibile che un adulto non riesca a comprendere il danno che arreca ai propri figli? Questa è la domanda che io rivolgo anche agli adulti. Questo esatto. È veramente un grave fenomeno che va arginato quanto prima. E speriamo insomma di aver sollevato anche questo dubbio nei confronti degli ascoltatori che magari a questo aspetto non hanno non lo hanno appunto considerato in maniera sufficiente. Dottor Anzilotti Bellisario, sì. Con la mediazione la coppia riesce ad abbassare la conflittualità oppure ci saranno magari dei casi particolarmente difficili che anche voi non ne riuscite a sostenere nella maniera corretta, perché si arriva con una credine che è talmente arrivata ad un punto elevato che è difficile anche per voi fare il vostro lavoro? Comunque, bene o male, un po' i toni si riescono sempre a smorzare attraverso questo istituto. Sì, assolutamente sì, in mediazione familiare si riesce a trasformare il dolore e la rabbia in risorsa. La coppia si riappropria della propria responsabilità genitoriale che il conflitto naturalmente aveva offuscato. È importante che quando due coniugi attraversano la delicata fase della separazione siano sostenute però le figure professionali adeguate e competenti, perché in tali circostanze si vivono momenti di grande confusione, di paura per il futuro, anche di fragilità emotiva legata anche alla necessità di dover riorganizzare la propria famiglia, le proprie relazioni familiari. Noi possiamo confermare però che incontro dopo incontro le parti si dimostrano sempre più calme, più fiduciosi tra di loro e anche più decisi nel confrontarsi apertamente su questioni che prima erano appunto bloccate a causa della cattiva gestione del conflitto che interrompe la comunicazione. Quando si rendono conto che tutto ciò è possibile, però si verifica che loro hanno già riacquistato fiducia in se stessi nel percorso. Certo. Senta, ma ci sono dei casi, dottor Anzilotti Bellisario, mi scusi se la interrompo, sì, in cui grazie alla mediazione si fa una marcia indietro, magari ci si riflette seriamente, magari alla separazione non si pensa più? Ci sono dei casi in cui avete esperienza anche in questo senso? Allora, molte volte le coppie arrivano in studio senza sapere con precisione quello che vogliono, perché l'istituto della separazione, secondo molti, è diciamo, la soluzione ai problemi familiari. Dopo qualche incontro, molto spesso ci è capitato più volte che la coppia si rende effettivamente conto che non è la separazione quella che vuole, ma forse aveva bisogno di un luogo di ascolto, un luogo neutro, un luogo dove un professionista potesse dedicarsi a certo. loro per cercare di far riprendere quella comunicazione che si era interrotta anche a causa dei problemi familiari, del coinvolgimento, come diceva Cristiana prima, dei familiari che portano le loro esperienze nell'ambito di una famiglia nuova, quando invece dovrebbero essere solo i coniugi a dover gestire la loro situazione. Quindi questo nella sostanza è questo il metodo, se così vogliamo chiamarlo, della mediazione, lo strumento della mediazione. Banalmente, e lo metto tra virgolette ovviamente, l'invito al dialogo dal momento in cui appunto queste persone non riescono più a dirsi in faccia, magari ecco, a esprimersi dolori, questioni represse e quant'altro. Assolutamente sì. Poi è logico che chi decide di separarsi nel 90% dei casi oramai ha già deciso e quindi va avanti per la sua idea, per la sua strada. Ecco, la cosa importante è far comprendere che non c'è solo la via giudiziaria, ma c'è anche quella del percorso in mediazione, dove appunto la coppia ha l'opportunità di poter decidere in prima persona come riorganizzare la loro vita futura nel rispetto di quanto sino a quel momento hanno costruito e condiviso, appunto sia sotto il profilo emozionale, certo, e relazionale, che sotto il profilo patrimoniale, in un contesto, abbiamo detto, neutro, riservato e segreto, certo, anche perché tutto quello che viene condiviso, tutto quello, tutte le informazioni che si danno non possono uscire assolutamente. Certamente, c'è la tutela. Allora, abbiamo subito alcune testimonianze, le raccogliamo molto volentieri questa mattina, perché quando poi l'ascoltatore si mette anche con noi, no? Così a nudo viene allo scoperto con queste situazioni così personali e delicate, noi le accogliamo e sono assolutamente protette anche a cuore denari. Nicoletta, che allora salutiamo e ringraziamo Barbara che ci chiama da Cesenatico all'800240024. Barbara, benvenuta e buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, sono un po' emozionata, spero di, visto questa mia emozione, spero di riuscire a poter dire tutto quello che ho in testa, perché io ho 51 anni, ho fatto 7 anni di battaglie legali con mio ex marito, non è tutto iniziato da me, ma da lui che se n'è andato via di casa, vabbè, non è importante. Dopodiché, dopo 7 anni, siamo ricorsi al Tribunale della Mediazione e nel giro di un anno abbiamo risolto tutto. Io dico questo, i tribunali sarebbero liberati da, non dico il 50%, ma da una percentuale altissima, perché addirittura vorrei scrivere un libro della mia esperienza e spero di riuscire a farlo prima o poi, ma ho bisogno anche di supporti, di consulenze particolari, perché bisognerebbe mettersi d'accordo sia che uno quando si sposa oppure vive insieme a qualcun altro, come fanno nei paesi nordici, si mette d'accordo prima su tutto, della casa. Barbara, guardi, parole sante, sembra che non sia mai un gesto d'amore quello di voler mettere un po' nero su bianco anche tutte le questioni pratiche che possono essere sollevate nel momento della separazione. Ne parli anche tu nel mio libro, esatto, capitolo... mi hanno caldeggiato tantissimo gli avvocati, i notai, di segnalarlo con grande attenzione, perché ovviamente nel momento in cui tu sei innamorato a questi aspetti non ci pensi e non ci vuoi pensare, dopodiché escono fuori in tutta la loro dirompenza e prepotenza quando c'è la crisi. Però qui chiedo però l'aiuto dell'avvocato, dottor Anzillotti Bellisario. La mediazione di cui parlava Barbara non è esattamente quella sulla quale lavorate voi, no? Perché Barbara parlava di quell'istituto che consente oggi di accelerare tutti i procedimenti giudiziari, la media conciliazione, che è altra cosa rispetto alla vostra. Detto questo, no, dottor Bellisario, ci sente? Sì, allora, sì, come no. Allora, la media conciliazione ha, diciamo, investe altre questioni. La mediazione familiare si occupa, esatto, prevalentemente solo ed esclusivamente di questioni familiari. Ora, evidentemente la signora Barbara, portandoci la sua esperienza, ha voluto dire che lei ha effettuato un percorso in mediazione familiare all'interno di qualche tribunale, o comunque è stata invitata dal giudice ad effettuare un percorso in mediazione, ecco, familiare, infatti, che evidentemente ha portato, insomma, comunque quando poi questo tentativo lo ha fatto, ha accelerato e sicuramente ha superato in maniera un po' meno dolorosa rispetto a quanto non stesse accadendo il suo problema, se poi si può dire che si possa superare con poco dolore appunto queste fasi della vita. Sentirei anche Carlo da Venezia velocemente per poi andare alle ultime considerazioni con Tiziana Rizzo e Antonio Anzillotti Bellisario. Carlo, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Io rispetto alla vostra ascoltatrice precedente porto la mia esperienza, che è assolutamente antitetica rispetto a quello che ha riportato lei, nel senso che io ho provato tutte e tre sostanzialmente le forme. La prima, legata a quella della mediazione volontaria, ecco, se possiamo chiamarla così, da dove ci siamo recati entrambi durante questo periodo comunque di grossa difficoltà all'interno di una struttura che comunque consentisse di provare a riallacciare dei fili. E sostanzialmente dico la mia, magari sono stato sfortunato, la mia impressione che è stata messa in mano probabilmente a persone non troppo competenti. Ora esula da esprimere giudizi nei confronti dei vostri ospiti, no, che saranno sicuramente assolutamente illuminati. Ma sono certa che conoscono il problema molto bene. E bravissimi, insomma. Però ho trovato di fronte delle persone che di diritto di famiglia o di psicologia a livelli più elementari non ne capivano molta. Dopodiché sono stato invitato presso il tribunale a fare quel tipo di percorso di mediazione e anche lì sostanzialmente è stata abbastanza una catastrofe. Ho trovato per mia fortuna un giudice molto avveduto che ha capito sostanzialmente come mitigare quelle che potevano essere le frizioni e tutto il resto, laddove ha invitato anche gli avvocati, perché molto spesso, non dimentichiamoci, sono anche gli avvocati che sono un cantinello belligeranti. A cui interessa che appunto la guerra continui, ovviamente per il loro interesse. Carlo, guardi, lei ha proprio detto le cose come stanno e noi la ringraziamo per la franchezza. Teodora Tiziana Rizzo, Carlo si è imbattuto in una serie di professionalità non adeguate a quello che serviva a lui. Chi è il mediatore? Dove vi possiamo trovare se abbiamo bisogno? Ed è vero che c'è ad un certo punto il tribunale che suggerisce eventualmente appunto un percorso con voi? Con sì, voi nel senso allora, con voi mediatori appunto. Io vorrei dire due paroline di conforto nei confronti di Carlo, perché comprendo perfettamente quello che lui ha detto e do pienamente ragione, perché purtroppo ci sono alcuni pseudoprofessionisti che intraprendono questa professione non avendo le competenze adeguate e poi purtroppo arrecano dei danni. Questo purtroppo accade in qualsiasi professione, però io accolgo insomma la lamentela che appunto ha fatto Carlo. Il mediatore familiare è un mediatore che accompagna la coppia in un percorso dove non si farà assolutamente nessuna guerra, perché sappiamo bene che ci sono alcuni avvocati che non hanno alcuna preparazione in diritto di famiglia che vogliono solo quella. Quindi il mediatore è un esperto nella gestione dei conflitti ed aiuta la coppia a far abbassare la soglia della conflittualità. Ma esiste un albo, dottoressa Rizzo, a cui attingere informazioni se per esempio allora, nella mia città non trovo? Ecco. Abbiamo un grande problema, perché c'è un albo, c'è un'associazione che è l'AIMEF, che ha un albo, un elenco in cui ci sono professionisti che sono formati in mediazione familiare. Però ancora, diciamo, sotto l'aspetto normativo non è legalmente riconosciuto. Lei adesso mi invita a fare una richiesta. Ecco, io vorrei fare una richiesta proprio e vorrei rivolgere una domanda al Ministro Orlando, perché io non riesco a comprendere. Allora, il Ministro Orlando che cosa ha fatto? Ha dato precedenza all'istituto della negoziazione assistita e al divorzio breve. E abbiamo visto nel corso di questi anni che comunque si sono rivelati un flop. Io mi chiedo, chiedo al Ministro Orlando, perché ha escluso l'istituto della mediazione familiare? Noi abbiamo delle proposte di legge, le abbiamo redatte, abbiamo riunito un tavolo tecnico dove le principali associazioni di categoria appunto hanno redatto questa proposta di legge. Ma non se ne è fatto assolutamente nulla. E allora speriamo che da questi microfoni il ministro senta, dottoressa Rizzo, e magari si sensibilizzi su questa questione che ci pare, alla luce delle gravi crisi familiari di cui continuiamo a leggere, sia abbastanza rilevante. Allora vi chiedo pazienza adesso, perché dobbiamo andare alla borsa. In ogni caso suggerisco agli ascoltatori, esiste comunque l'organizzazione di riferimento dei mediatori che è INAMEF, per cui andate a controllare lì se magari riuscite a trovare il professionista che vi serve sul territorio. Accreditati, tutti controllati da Tiziana Rizzo appunto e Antonio Anzillotti Bellisario. Nicoletta, andrei in borsa? Rimango qua. Ah, meno male, perché controllerei la borsa. Brava, andiamo. Perfetto, diamo e poi occhio. Torniamo subito insieme. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Lo senti, è un aereo che decolla? Sì, non atterra. Questo ecco, decolla. Perché c'è stata questa compagnia aerea norvegese, sì, incredibile, che ha proprio colto al volo l'occasione per fare un, per così invitare le donne, immagino, a recarsi a Los Angeles. Certamente. Perché Brad è libero, quindi acchiappala al volo, prendi un le volo. Le aspetta tutte, insomma. Lui là, ecco. Vedi, non solo gossip, ma anche accende la creatività. La trovata è stata geniale. Ecco. Poi ci sono naturalmente altre, si leggono, no? Le interviste delle varie tate di casa, sì, che non, sì, perdono occasione di raccontare le peggio cose sui bambini che vengono definiti maleducati, violenti, molto, no, ma anche molto il documento litigiose, già con tutti i temi della separazione, sì, le richieste di lei che già circolava, sì, infatti, devo dire. Noi ne parliamo, ecco, perché questo ci dà l'occasione per, nella prima parte, e sono ancora con noi, sì, il dottor Antonio Anzilotti Belisario e la dottoressa Teodora Tiziana Rizzo per parlare di mediazione familiare, e ma volevamo, e l'abbiamo anticipato, insieme ad Alberto Pellai, che saluto, che è già in linea con noi. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta, ciao Deborah. Affrontare, ciao, Alberto, un tema a noi particolarmente caro e soprattutto anche a te, perché genitori si è per sempre. Sì, soprattutto quando ci si separa, credo che tutti quelli che un po' cercano di sostenere, accompagnare una coppia in un passaggio così faticoso, doloroso e spesso pieno di emozioni irrisolte nel mondo interno degli adulti, come è la separazione, fanno chiarezza con gli adulti: smetterete di essere partner affettivi, ma non smetterete mai di essere i genitori dei vostri figli. Essere genitori vuol dire sentirsi una squadra sulla parte proprio educativa e genitoriale, e la condizione migliore anche per i figli, che comunque risentono emotivamente di un terremoto così intenso come quello della separazione dei genitori, è vedere una mamma e un papà che sanno comunque sul fronte genitoriale rimanere alleati e dare tutte le protezioni e il percorso di continuità che a un figlio garantisce il fatto che la vita può continuare a essere pensata come sicura e prevedibile. Allora, intanto Alberto, che dalla regia ti richiamano perché sento che, sì, la voce non è, il sonoro non è pulito. 800 24 00 24, se volete intervenire, se volete condividere con noi magari un momento particolarmente faticoso della vostra separazione, della vostra vita di coppia, condividere con noi un'esperienza da figli di genitori separati. Prenderemo spunto anche dal libro che Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, scritto con Barbara Tamburini, Vi lasciate o mi lasciate? Come spiegare a un figlio la separazione dei genitori. Alberto è già ti abbiamo già riacchiappato. Alberto, questa è la coppia che ha fatto sognare tutti, ogni epoca ha le sue. Mi piacerebbe chiedere ai nostri ascoltatori qual è la coppia che avete nel cuore, no? Perché molte coppie abbiamo seguito le storie cercando un po' di immedesimarci in loro. Liz Taylor e Richard Burton, esatto, si sono ripresi e rilasciati un migliaio di volte. Il problema è che dietro a questa storia c'è un fatto serio, dove non entriamo naturalmente perché non abbiamo gli elementi, ma Angelina, la preoccupazione, le accuse di Angelina riguardano gli atteggiamenti violenti di Brad Pitt nei confronti dei figli, tanto che sembra che lui sia stato recentemente sentito dai servizi sociali. In ogni caso, questi poveri sei ragazzini se la stanno vedendo davvero brutta, perché la storia dei loro genitori è su tutti i giornali. Ma le da accuse, sempre, peraltro, già vivevano, insomma, ecco, una storia familiare un po' più complessa, diciamo, di bambini normali. Ecco. D'altronde, Alberto, alla rottura non si arriva dall'oggi al domani. Sicuramente il periodo precedente non è facile da gestire, perché ci sono tante tensioni. E in effetti è proprio quel periodo per cui, per esempio, il percorso della mediazione viene così tanto consigliato ai genitori. Moltissimi genitori utilizzano spesso una sorta di teoria ingenua, cioè il fatto di tenere un po' tutto congelato nella narrazione ai figli di quello che succede e anche nel preparare i figli, cioè dicono: fino al giorno prima della nostra separazione i figli li proteggiamo non dicendogli niente e non facendogli vedere niente. In realtà i figli hanno la consapevolezza chiara di quello che sta succedendo in famiglia, magari sentono gli adulti che continuano a urlare, che si dicono le peggio cose, rimangono spaventati, impauriti, spesso hanno tante domande, ma devono rimanere in silenzio, perché è come se i genitori gli insegnassero che di questo non se ne parla fino a quando non sarà il momento. Allora, questo è un esempio concreto di un errore che frequentemente si constata nelle separazioni coniugali, e effettivamente sentire che questo passaggio è un passaggio complesso, faticoso, dove magari non riusciamo a fare tutto da soli e ci conviene essere aiutati, ecco la figura del mediatore, può essere proprio un aiuto a rimanere ottimi genitori e anche a separarsi un po' meglio. La separazione, abbiamo detto, è un evento doloroso per tutta la famiglia, per i genitori che vedono svanire proprio il proprio sogno coniugale con tutti gli aspetti affettivi e progettuali connessi, e soprattutto per i figli che sentono minacciato il loro bisogno di protezione. Ed è proprio questo bisogno di protezione che può guidare quindi i genitori in questi casi di separazione. Proteggi e tutela tuo figlio, anche se molte coppie di amici che io ho incontrato in questi momenti così di difficoltà hanno tentato di non coinvolgere subito i figli cercando di recuperare la situazione, ma inconsapevolmente o mandando dei messaggi destabilizzanti ai figli. Alberto. Ecco, sì, cioè soprattutto quando la separazione è proprio un evento da qualcuno nella coppia fortemente voluto, magari da qualcun altro fortemente subito, e laddove non c'è stato un percorso di rielaborazione anche dell'adulto sulle emozioni che sente, che prova, spesso i figli rimangono intrappolati dentro al conflitto, per esempio diventano quelli che ricevono confidenze di un genitore che proprio a loro va a parlare male dell'altro genitore: guarda cosa mi sta facendo la mamma, oppure guarda che cosa ci ha fatto il papà. Tutte parole, tutti discorsi e tutte emozioni di cui il bambino non può essere il contenitore, perché devono essere risolte al piano alto del conflitto familiare. Il bambino dovrebbe in qualche modo vedere due adulti che, consapevoli del proprio conflitto, hanno costruito un'alleanza per agirlo nella separazione coniugale, quella affettiva, ma allo stesso modo per far sì che questo conflitto non alteri o non destabilizzi invece il legame educativo con lui. E quindi ecco che la parola protezione che hai detto tu è fondamentale. Un bambino deve sentire che due genitori si lasciano, ma non lo lasciano, e in qualche modo gli garantiscono una continuità nelle sue abitudini, nella sua vita, nel suo senso di protezione, che non viene intaccato dalla decisione di separarsi del marito e della moglie, che sono invece la sua mamma e il suo papà per sempre. L'insistere su questo concetto, su questo termine, quello della protezione, mi fa ripensare anche allo spirito con il quale Teodora Tiziana Rizzo e Antonio Anzillotti Bellisario hanno deciso di fare da mediatori familiari in coppia. È così, Anzillotti Bellisario, perché anche la coppia che viene da voi a cercare di risolvere in qualche maniera la loro situazione, a cercare di arginare tutta la conflittualità che si scatena nella fase in cui, appunto, nella fase della separazione, cercano probabilmente conforto e protezione. Il fatto di essere ricevuti da una coppia in qualche maniera scombina un po', cambia un po' le carte in tavola. Che cosa succede di fronte a voi quando una coppia arriva e vi trova in due? Assolutamente sì, è giustissimo quello che dici. La coppia, quando entra nel nostro studio, in pratica è come se si rispecchiasse anche un po' in noi, quindi comprende anche che è tutto possibile, anche uscire da questa situazione di conflittualità, da questa impasse. Poi molto spesso capita che quando il mediatore è da solo a gestire questi incontri, ma solo per un pregiudizio che può coinvolgere una delle parti, può pensare che se è donna magari ci può essere un maggiore coinvolgimento con la ex moglie, se invece il mediatore è uomo ci può essere al contrario il coinvolgimento con l'ex marito. Ecco, sì, con più noi complicità, questo, no? Diciamo, sì, ecco, invece sì, professionalmente, ecco, parlando, non dovrebbe scatenarsi questo, però il dubbio, ecco, viene alle coppie, ecco. Sì, a noi, ecco, ci agevola il fatto che siamo in due, quindi questo rassicura, proprio te ne accorgi, lo percepisci che si sentono entrambi sicuri, anche perché noi cerchiamo di trasferire anche serenità, tranquillità e assoluta neutralità e gli stessi spazi di attenzione che vengono rivolti sia all'uno, certo, che all'altro. Intanto un ascoltatore, hai visto Nicoletta sull'SMS, chiede di ci prega di sottolineare la questione che le relazioni delle coppie sono spesso inquinate da parenti. È stato uno dei primi punti che ci hanno indicato appunto i nostri professionisti questa mattina collegati con noi, e quindi sì, tocca dar ragione anche a questo ascoltatore che evidentemente dice addirittura ho un figlio che ha 33 anni, ha problemi che non supererà mai, probabilmente generati anche da queste conflittualità con delle contaminazioni esterne. Alberto, ci sono due momenti, due situazioni che una coppia in crisi fatica ad affrontare: il silenzio dei figli di fronte a questa decisione, ma anche la difficoltà a rispondere a delle domande precise. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi chiederemo indicazioni ad Alberto Pellai, consigli. Come si affronta una separazione, come si tutela il benessere dei figli per evitare di lasciare quelle che Alberto Pellai chiama tatuaggi emotivi. Un aspetto l'ha già sottolineato Alberto: evitiamo di screditare la figura della mamma o del papà con dell'altro insieme al figlio, facendo le vittime, guarda che cosa mi sta facendo tua mamma, guarda che cosa sta facendo tuo papà, oppure appiccicandogli dei difetti che magari il bambino non ha bisogno di vedere in quel momento. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Cuore e denari. Siamo tornati insieme, in linea con noi Alberto Pellai, ma anche la dottoressa Teodora Tiziana Rizzo, l'avvocato Antonio Anzilotti Belisario. Stiamo parlando di separazione, di tutte le conseguenze che una separazione può avere per la vita della coppia, per la serenità della coppia e anche per quella dei figli. Alberto, silenzio dei bambini e le domande sono dei passaggi difficili da affrontare. Sono spesso anche però il risultato della fatica con cui gli adulti non hanno saputo autorizzare le parole dei bambini e le domande che tutti i bambini hanno in un frangente di vita di questo tipo. Potremmo dire ai genitori che devono affrontare un passaggio così faticoso che il modo migliore è quello di avere una narrazione congiunta, cioè se quello che noi vogliamo dire ai nostri figli è che mamma e papà non saranno mai più marito e moglie, ma continueranno a essere mamma e papà, ecco, questa comunicazione va data insieme ai bambini. Quindi ci deve essere la capacità di preparare un discorso dove i bambini verranno confrontati con l'evento della separazione dei genitori. Quel discorso ha dentro una verità che la mamma e il papà condividono insieme di fronte a loro, e a quel punto la prima reazione dei bambini sarà una reazione proprio sul piano emotivo: saranno spaventati, saranno disorientati, saranno arrabbiati, a volte magari penseranno di aver loro la colpa. E il secondo livello perciò dell'intervento dei genitori sarà quello della rassicurazione, cioè far sentire che anche se la vita cambierà drasticamente, loro si prenderanno carico, si faranno carico loro insieme di garantire ai bambini protezione e continuità. E a quel punto la cosa che quasi sempre fanno i bambini è provare a chiedere alla mamma e papà se il loro mondo e la loro vita cambierà drasticamente, oppure se tutti quegli elementi che hanno costruito la loro vita fino a quel momento potranno andare avanti. E lì mamma e papà cominceranno un lavoro di rassicurazione, facendo vedere che al piano alto della famiglia hanno costruito un progetto nella loro separazione in cui lo spazio della genitorialità però rimane uno spazio attivo, condiviso e che protegge i bisogni dei bambini. Bisogna chiedere in questo caso anche l'alleanza dei nonni, perché anche le persone che vivono vicino alla coppia devono fare rete, sostenere. Alberto. È cruciale, e in effetti una delle sofferenze poi più grandi che vediamo nei bambini è che è come se la separazione di mamma e papà spaccasse il mondo delle famiglie completamente in due parti diverse, che è come se cominciassero a farsi tutti la guerra l'uno contro l'altro. La continuità è invece garantire ai bambini un mondo adulto che, soprattutto per esempio nell'esperienza dei nonni, sa continuare le alleanze, sa parlare, pensare e gestire, nonostante magari il dolore profondo che il fallimento coniugale provoca anche nei nonni, sa continuare a gestire la quotidianità nella logica che i bambini hanno bisogno di avere vicino a loro degli adulti non rancorosi e irrisolti sul piano emotivo, ma equilibrati e competenti, e quindi adulti che sanno mettere al centro dell'attenzione le emozioni dei bambini e non le loro emozioni irrisolte. Andiamo a Pordenone, Debora. Da Ezio, sì. Magari si accende buongiorno. Il microfono meglio. Ezio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Ezio. Buongiorno e grazie per quello che state dicendo. Io sono un nonno e che purtroppo la figlia si è separata. E purtroppo adesso nasce una lotta tra me e mia moglie. Mm. Perché? Perché mia moglie difende mio genero, sì. E io non è che difendo mia figlia, ma cerco di far capire a mia moglie che è importante salvaguardare la nostra figlia anche, no? Invece mia moglie ha preso le parti di mio genero. Volevo capire cosa bisognerebbe fare. Grazie. Grazie. Alberto, la suocera sostiene il genero, la figlia si sente quasi, no? Certo, un po' da sola. Non si sente la famiglia vicina. È come se il conflitto dei due coniugi che si separano alimentasse un nuovo conflitto fra i genitori di uno dei due coniugi. Ecco, tutta questa zona qua non fa bene a nessuno. Il problema è che cosa ci serve in questo momento per far squadra? Non è dare le ragioni al marito o alla moglie, perché questa cosa qua riguarda solo la coppia che si sta separando. Come nonni, molto probabilmente quello che serve in questo momento è dare l'aiuto che serve, e quindi quali sono i bisogni concreti che devono essere gestiti e affrontati da quella coppia che si sta separando, e quindi qual è il nostro ruolo nel sostenere nei bisogni concreti questa situazione in modo specifico. Ai nonni all'ascolto direi proprio mettete sempre al centro non le ragioni dei genitori, perché quella è una faccenda loro, ma cercate invece di aiutare quei genitori a essere i migliori genitori possibili per i loro bambini. Quindi non essere giudicanti, no. Alberto, esatto, ma esatto. Collaborativi. Esatto. Tra l'altro, a mettere in crisi Angelina e Brad ci potrebbe anche essere stato il tema della paura della malattia. Vi ricordate certo. Che lei 3 anni fa si è sottoposta alla doppia mastectomia, l'anno scorso ha deciso di farsi asportare le ovaie, no? E questa è una circostanza che mette a dura vita una coppia, tanto che questo tipo di situazione è stata anche oggetto di studio. Ad esempio, in uno studio pubblicato sulla rivista Cancer, i ricercatori hanno analizzato le statistiche dei casi di divorzio di 515 pazienti colpiti da varie forme di tumore, seguiti per un arco temporale di 5 anni. Bene, i risultati hanno confermato quanto era già emerso da pochi studi sul tema che erano stati svolti in passato. Circa il 12% delle coppie va incontro a divorzio o a separazione se uno dei due coniugi sviluppa il cancro, ma ben il 21% delle coppie tende a separarsi quando ad ammalarsi è lei, mentre soltanto il 3% dei matrimoni si rompe se è l'uomo ad essere colpito dalla malattia. La rottura, dicono gli studi, è più frequente nelle coppie giovani, quelle quindi con una storia più breve o formate da persone di giovane età, mentre i coniugi anziani o sposati da lungo tempo sembrano reggere meglio l'impatto. Anche questo tipo di situazione può aver influito sulla separazione. Noi non cerchiamo di capire se è stato questo il motivo, ma in un momento di rottura non potevamo evitare di citare anche questi studi che raccontano anche una dimensione del problema. La ricerca è davvero molto interessante, e in realtà quando avviene un evento traumatico e la diagnosi di una malattia che ha un impatto così forte sulla nostra vita, lo è indubbiamente, la famiglia deve affrontare uno stress incredibile, perché deve generare un nuovo equilibrio. Non si può più vivere fino a come abbiamo vissuto il giorno prima, fino al giorno prima della diagnosi, perché qua bisogna proprio un po' rendere più flessibili i ruoli, le mansioni, la condivisione dei doveri e il genitore che magari ha fatto meno, ecco perché a volte vengono meno intaccate, no? Le coppie dalla diagnosi sull'uomo invece che sulla donna, perché in realtà con una diagnosi di tumore sulla donna al papà si chiede di uscire dalla, magari dal suo copione di uomo che lavora e che è meno coinvolto nella vita familiare, gli si chiede di mettere in gioco molte più competenze e molto più energie. Questo genera uno stress forte, soprattutto in una coppia che non ha un'esperienza di coppia molto lunga come sono le coppie giovani, e questo obbliga poi a dover fare un intenso lavoro di ridefinizione di sé, dei propri ruoli, di mediazione all'interno della coppia, e a volte uno cerca di fare tutto da solo, proprio mentre sta affrontando però il dolore e la sofferenza legata alla malattia. Io direi che qua il messaggio da dare, se state attraversando un momento molto faticoso perché è arrivata per esempio una diagnosi di malattia molto forte, la cosa fondamentale è chiedere aiuto, non pensare che dentro alla propria coppia ci siano già tutte le risposte pronte, perché questo può diventare uno stress eccessivo e davvero rompere degli equilibri in modo irrimediabile. Che bel argomento. Si è peraltro anche scatenato il partito dei nonni in questa puntata, in molti ci hanno telefonato e scritto, addirittura chi ci racconta che per vedere i nipoti deve intentare causa ad un tribunale. Qui siamo veramente allo sbaraglio totale, purtroppo. Grazie a Teodora Tiziana Rizzo, ad Antonio Anzillotti Belisario, ad Alberto Pellai per essere stati con noi. Temi sui quali torneremo, ve lo promettiamo, perché avete bisogno anche di questa nostra, come dire,